Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno a tutte le persone in ascolto, questa è Restiamo Animali, una trasmissione animalista, antispecista e vegan che ormai definiamo storica perché andiamo in onda ininterrottamente dal marzo 2012. In questo spazio interpretiamo le notizie e le opinioni dal punto di vista degli altri animali perché vogliamo includerli nella grande famiglia dei viventi degni di considerazione e di rispetto. Lo facciamo per loro, ma anche per noi, per una società quindi umana, non violenta o, come ci piace dire, cruelty free. Salutiamo oggi e ringraziamo Fango, una web radio che potete trovare su www.fangoradio.com e che dal mese di maggio, settimanalmente, manderà in onda la nostra trasmissione come fanno tante altre radio in Italia, sul web e in FM. In questa puntata, numero 587, parleremo di orsi, di elefanti, di zoo, ma anche di vivisezione e di allevamenti. Ci sarà spazio per la presentazione di un libro, per una ricetta cruelty free e per tanta ottima musica. Il sound design è a cura di Gianluca Masala. Speriamo di avervi incuriositi. Nella scorsa puntata avevamo parlato di vivisezione, l'odiosa e dolorosa pratica che permette legalmente di torturare animali per un'idea di progresso che secondo questa trasmissione andrebbe completamente ripensata. Se andate su YouTube e digitate Save Ralph, è molto probabile che compaia davanti ai vostri occhi un cortometraggio in stop motion la cui anteprima ha già raccolto quasi 50.000 visualizzazioni e che adesso ha anche i sottotitoli in italiano. Il cortometraggio sarà doppiato anche in spagnolo, francese, portoghese e vietnamita. Il protagonista è un coniglio, Ralph, visibilmente provato con un occhio rosso e una benda all'orecchio, che viene intervistato e racconta quello che normalmente accade nei laboratori scientifici di tutto il mondo. Il coniglio è il portavoce della campagna /Save Ralph di Human Society per vietare i test sugli animali per la produzione di cosmetici. Questo corto mostrerà la routine quotidiana di Ralph, il quale si pone come rappresentante della sua specie e in generale di tutti gli animali da laboratorio, per mettere in luce l'impatto devastante dei test sugli animali. Il cortometraggio ha un cast di eccezione, dal regista fino agli attori che hanno prestato la loro voce. Ovviamente questa redazione non si accontenterebbe di uno stop della vivisezione solo per i test dei cosmetici. Noi appoggiamo questa campagna, ma vorremmo che la sperimentazione scientifica sugli animali si interrompesse, a prescindere dalle finalità per la quale viene condotta. Sfruttamento animale a scopo sedicente scientifico, passiamo a una notizia che abbiamo trovato sul Fatto Quotidiano del 20 aprile scorso che racconta molte verità nascoste riguardo allo sfruttamento animale a scopo alimentare. Con l'Italia e il mondo intero nel pieno di una crisi sanitaria pandemica, recita così l'articolo, con una mortalità che ha superato quella della Seconda Guerra Mondiale, fa ancora più male dover denunciare una realtà spaventosa come quella che è stata scoperta in provincia di Cremona. Un allevamento con capienza di circa 3.000 maiali in condizioni igieniche precarie, con spazi infestati da topi e scarafaggi, smaltimento illegale di carcasse, inquinamento ambientale, percosse e violenze agli animali, mutilazioni illegali come il taglio sistematico della coda e la castrazione dopo i 7 giorni di età. La vicenda dimostra come il sistema dei controlli sia del tutto inadeguato a verificare il modo in cui milioni di animali vengono allevati ogni anno. Con una videoinchiesta esclusiva per la campagna che il fattoquotidiano.it, in collaborazione con l'associazione LAV, ha realizzato sui costi sanitari e ambientali della carne, della quale abbiamo noi già parlato nelle puntate scorse, la giornalista Giulia Innocenzi mostra in presa diretta le immagini dell'allevamento e le zone in cui vengono buttate illegalmente le carcasse per risparmiare sui costi di smaltimento. È una pratica portata avanti per molti mesi, come dimostrano le immagini ricevute dall'associazione LAV. Interpellato davanti alla sua azienda, il proprietario ammette di gettare i maiali nella discarica per abbattere i costi, però nega che ci siano dei rischi. Malattie? Ma no, come fanno a trasmettersi? Dopo la segnalazione alle forze dell'ordine, però, l'allevatore prima caccia la scomoda giornalista, poi con una ruspa si affretta a coprire la fossa, cercando di occultarla ai controlli. Alla fine verrà denunciato dai NAS per inquinamento ambientale. E questa che abbiamo raccontato è solo la punta dell'iceberg, possiamo solo immaginare cosa accade nelle migliaia e migliaia di piccoli e medi allevamenti lontani dalle telecamere, dove aggirare le norme di tutela aumenta i profitti e d'altra parte gli animali non mandano SOS. E anche se sui loro corpi sono effettivamente tatuate le violenze che subiscono, beh, sono sempre testimoni condannati a morire giovani. Il nostro plauso quindi va alla LAV, a Giulia Innocenzi del Fatto Quotidiano e a tutti quegli attivisti di tante associazioni che fanno investigazioni sotto copertura, facendosi anche assumere da allevamenti e macelli, per poter testimoniare, portar fuori immagini, video e fotografie di quello che accade nei bassi fondi dell'inferno in terra. We'll be right back. Dalla stampa.it del 23 aprile scorso, nella sua rubrica La Zampa, prendiamo una storia che ci fa capire come il potere di vita e di morte che l'uomo si è arrogato sugli altri animali sia totale e senza scampo. Se vi dicessero che per ciascun vostro familiare ucciso la vostra vita si potrebbe allungare di qualche anno, è quello che accade agli elefanti dello Zimbabwe. Ma arriviamoci per gradi. Durante il lockdown di un anno fa ci siamo sentiti tutti un pochino consolati guardando le immagini degli animali selvatici che si riappropriavano degli spazi urbani. Vedere famiglie di cinghiali, istrici, tassi, caprioli è sempre uno spettacolo edificante. Ma in realtà il Covid-19 non ha fatto del bene a tutti gli altri animali. Non se pensiamo allo Zimbabwe, che rilascerà presto i permessi per uccidere 500 elefanti entro il 2021 a pagamento. La decisione è stata presa per compensare i mancati ricavi del settore turistico in seguito alla pandemia di Covid-19. «Mangiamo quello che uccidiamo», hanno dichiarato le autorità dello Zimbabwe. «Abbiamo un budget di circa 25 milioni di dollari per le nostre operazioni, che in parte viene raccolto attraverso la caccia sportiva, ma al momento il turismo è quasi morto a causa della pandemia di coronavirus». La decisione è stata condannata dagli ambientalisti, non solo in Zimbabwe, e arriva a meno di un mese dall'SOS lanciato dall'International Union for Conservation of Nature, che ha ammonito sul rischio di estinzione dell'elefante africano delle foreste, una delle due specie di pachidermi più diffuse in Africa. Contrariamente alle argomentazioni del governo, secondo cui la caccia ai trofei ha lo scopo di aiutare la conservazione, la pratica è invece motivata dall'avidità e spesso il denaro non viene nemmeno contabilizzato. Questa è la denuncia degli ambientalisti locali. Sono necessarie misure più innovative ed ecosostenibili per compensare le mancate entrate dei safari fotografici e del turismo in generale. Purtroppo lo Zimbabwe non è l'unico paese della regione a consentire la caccia agli elefanti a pagamento. Lo scorso dicembre la Namibia ha messo in vendita 170 elefanti selvatici di alto valore a causa della siccità e dell'aumento della popolazione. Negli ultimi 30 anni la popolazione di elefanti africani delle foreste è scesa dell'86%, mentre gli elefanti africani della savana sono diminuiti del 60% negli ultimi 50 anni. Appena mezzo secolo fa l'Africa ospitava 1,5 milioni di elefanti, mentre l'ultimo censimento su larga scala effettuato nel 2016 segnalava la presenza di appena 415.000 esemplari. Quotidianoladige.it di mercoledì 28 aprile apprendiamo che l'orsa DJ3, dopo 14 anni di detenzione nel recinto del Castellar, ha potuto nuovamente annusare l'erba ed entrare in un bosco, per quanto in cattività. Lo annuncia l'Alternativer Wolf und Bärenpark Schwarzwald, il parco faunistico di Vorbis, dove l'orsa è stata trasferita con un blitz tenuto segreto. I responsabili del parco tedesco scrivono: ieri sera, dopo essere arrivata, l'orsa, ribattezzata Isa, ha trascorso la notte nel centro di transizione. Poi questa mattina è finalmente arrivato il momento. Le porte si sono aperte e Isa si è mostrata molto curiosa. Ha esaminato l'area esterna, visibilmente felice di essere all'aperto. Il primo passo per una nuova fase della vita è fatto. Presto, quando l'ambientamento sarà terminato, Isa potrà accedere ai recinti più grandi dell'impianto. La decisione di trasferire DJ3 in Germania, tuttavia, non è esente da critiche. L'orsa è stata deportata il 25 aprile, trasferita in uno zoo tedesco dalla giunta Fugatti, la giunta della provincia autonoma di Trento, con una manovra che rappresenta l'esatto opposto dei valori della liberazione. E questo è il commento degli attivisti della campagna /StopCasteller. La nuova sistemazione nella foresta nera le concederà spazi più ampi dei 12 metri quadrati dove gli amministratori trentini l'avevano relegata e ci si augura un trattamento più competente e gentile, ma non le concederà la libertà. Margherita D'Amico, nel suo blog Richiamo della foresta su Repubblica.it, scrive: «Il fatto più grave è che DJ3 è stata sloggiata, forse per liberare uno spazio al Casteller pronto ad accogliere nuove vittime». Prosegue infatti il piano di sterminio portato avanti da Fugatti e Zanotelli, con la collaborazione dell'ISPRA, che ha concesso alla provincia un abbattimento all'anno, assieme ancora a col diretti, allevatori e cacciatori. A chi toccherà adesso? Chi sarà il prossimo orso strappato alla vita libera e recluso al Casteller? Per tenervi aggiornati vi consigliamo la pagina Facebook dell'Assemblea Antispecista, oppure in alternativa potete seguire l'hashtag StopCasteller. Quasi non c'è discussione sull'animalismo che non arrivi a citare il nazismo, il vegetarismo di Hitler, la legislazione sugli animali emanata nei pochi anni della croce uncinata al potere e rimasta in buona misura nell'ordinamento della Germania odierna. Quale fu dunque il rapporto fra il nazismo e gli animali? Fu senz'altro un rapporto intenso sul piano simbolico e anche su quello pratico, ma di quale segno? I nazisti erano forse animalisti? Più avanzati dei loro avversari liberali, democratici e di sinistra? Prova a dare una risposta, oltre ai miti e le dicerie, uno storico e giornalista tedesco, Jan Monhaupt, autore di un libro, Bestiario nazista, pubblicato in Italia da Bollati Boringhieri. Fra i tanti animali presi in considerazione, il lupo occupa uno spazio speciale. Hitler, come è noto, ebbe molti rifugi e li chiamò tutti la tana del lupo, perché questo fu l'animale simbolo del regime, come creatura predatrice, padrona di sé e del proprio ambiente, le attitudini che il nazismo rivendicava per sé e per il suo modello umano. Un uomo dominatore. Poi c'è il cane lupo, il pastore tedesco, selezionato all'inizio del Novecento e a sua volta simbolo del nazismo, stavolta per attitudini diverse, ma anch'esse importanti nell'ottica del regime, la fedeltà, l'obbedienza, virtù evidentemente non dell'élite, come nel caso del lupo, ma delle masse, da controllare, dominare, tenere vicino a sé. È proprio questo il punto messo in luce da Jan Monhaupt. Il regime e i suoi gerarchi ebbero una relazione strumentale con gli animali. Cani e lupi servivano per esibire e confermare i valori del regime, se vogliamo chiamarli così. Perciò altri animali erano invece rifiutati o visti con sospetto. Wilhelm Vesper, giornalista nazionalista, adulatore del Führer, definì per esempio i gatti perfidi, falsi e asociali, insomma gli ebrei fra gli animali. E agli ebrei, a un certo punto, durante la guerra, fu vietato di tenere gatti con sé e fu anche lanciata una campagna di eliminazione dei gatti randagi. Poi, per fare un altro esempio, ci sono i maiali, oggetto di una specifica campagna di disciplinamento. La popolazione fu invitata a conservare gli scarti di cucina e a destinarli all'allevamento dei suini, in modo da aumentare la produzione di carne, alla faccia del vegetarismo di Hitler. Hermann Göring, gerarca esibizionista, amante dei titoli altisonanti, arrivò a farsi definire guardacaccia del Reich. Amava cacciare i cervi nella sua bellissima e grandissima tenuta. Fece anche costruire un monumento in bronzo con le fattezze del cervo più grande che riuscì a uccidere. Oggi il monumento è in un giardino appartato di Berlino. Göring amava esibire anche cuccioli di leone. Li teneva con sé finché non diventavano troppo grandi. A quel punto li destinava agli zoo. Per Monhaupt la questione del nazismo e degli animali si può sintetizzare così. Il nazismo è un'ideologia che considera il valore di una vita sulla base della sua utilità, senza fare una distinzione netta fra umanità e altri animali. Perciò alcune vite animali vengono valutate meritevoli e quindi protette, mentre alcune vite umane vengono definite parassitarie e annientate. E c'è dell'altro. l'ideologia razzista del nazismo riprende le pratiche di selezione razziale dell'allevamento di animali e le applica alle sue teorie sulla razza ariana e le altre. No, quindi, ai mescolamenti fra razze diverse e sì all'eliminazione degli individui deboli o difettati. La società umana come un grande allevamento gestito dal popolo dominatore e dai suoi leader. Ecco spiegato come il nazismo conciliava le leggi di protezione della vita selvatica, vita pura, forte, dominatrice, con il piano T4 di eliminazione dei più deboli fra gli umani. Ecco perché a Buchenwald e altri lager furono allestiti piccoli zoo con orsi e altri animali, trattati assai meglio dei prigionieri umani. Jan Monhaupt, bestiario nazista, bollati boringhieri. This morning, you were moving so fast. Can't seem to loosen my grip on the path. And I miss you so much, there's no one insane. And we're still making love in my secret life, in my secret life. I smile when I'm angry, I cheat and I lie. I do what I Gabriele Palloni, il nostro vegan chef, nel suo spazio etico-gastronomico ci suggerisce di portare anche un po' di sano antifascismo nelle nostre cucine, con una ricetta dal titolo ironico ed evocativo. Sentiamo. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Tenetevi forte, perché la ricetta di oggi è di quelle che vi faranno dire ma che sebiscono davvero, se siete fiorentini. Altrimenti sostituite a piacere con un'esclamazione delle vostre parti. Ricetta che rende onore all'antifascismo, perciò ho voluto inventare qualcosa di unico e molto particolare. Vi anticipo che l'ingrediente principale è il germoglio di felce commestibile, noto anche come felce penna di pavone, per via della sua forma. Non facile da reperire e da mangiare solamente cotta, altrimenti può essere tossica. Se non la trovate, potrete sostituirla con degli asparagi, meglio se selvatici, che hanno un sapore piuttosto simile. Permettetemi infine una dedica particolare a mio nonno Renato, partigiano che mi ha insegnato il valore dell'antifascismo. Gli ingredienti per 4 persone per felce e mirtillo sono 400 g di germogli di felce commestibile, 100 g di mirtilli freschi o in alternativa surgelati, 100 g di scalogno, 50 ml di aceto di mele, 20 g di zucchero di canna, 20 ml di olio extravergine di oliva, sale e pepe. Thank you. Lavate accuratamente i germogli di felce e lasciateli in ammollo in acqua fredda. A parte sbucciate lo scalogno e affettatelo finemente. Quindi fatelo scottare in padella con poca acqua o brodo vegetale e quando questa si sarà ritirata, fate soffriggere con un cucchiaio di olio extravergine. Aggiungete mirtillo e lo zucchero di canna. Fate cuocere per un paio di minuti, quindi sfumate con l'aceto. Lasciate evaporare, aggiustate di sale e pepe e schiacciate i mirtilli con una forchetta. Quando la salsa inizierà ad addensare, toglietela dal fuoco e lasciatela intiepidire. Nel frattempo scolate i germogli di felce e lessateli in abbondante acqua leggermente salata per 15 minuti. Scolate bene e saltate in padella con un cucchiaio di olio extravergine. Sistemate i germogli ben caldi nei piatti e condite con la salsa al mirtillo. Ricordiamo che è uscito l'ultimo libro di ricette di Gabriele Palloni, edito da Newton Compton. Il titolo è Se vuoi vivere sano, cucina vegano. Chiudiamo con una buona notizia. L'emergenza sanitaria è drammatica per la salute e l'economia, ma Covid-19 porta con sé anche qualche rara bella notizia, come quella della cancellazione, per il secondo anno di fila, della festa di San Firmino. Le autorità di Pamplona, in Spagna, già lo scorso anno, sempre a causa del virus, si erano viste costrette a cancellare gli eventi in programma. Secondo la tradizione, ogni anno a Pamplona, tra il 7 e il 14 luglio, 6 tori da corrida, alcuni fino a 600 kg di peso e diversi buoi, vengono inseguiti da centinaia di persone lungo le stradine della città, fino all'Arena dei Tori, dove in serata si tengono le corride, dalle quali i tori escono solo da morti. Ogni anno nella corsa, lunga 875 metri, rimangono ferite diverse persone, alcune in modo grave. Da anni gli attivisti per i diritti degli animali protestano contro questa assurda mattanza. Con questa notizia è veramente tutto, vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata la nostra redazione, composta da Roberta Marino, Francesca De Matteis, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco, Anna Granata, Gianluca Masala, Francesco Panier e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 588 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.